ombra, che i dubbi magari sono vecchi eccetera, sono sfasci quanto c'è, capito? E usano questo prodotto qua, però non mi ricordavo come si chiamava, capito? Quindi se lo trovi, prendilo, magari se hai difficoltà o hai paura eccetera, fammelo sapere, mi avvicino io. Ah, quello non è un problema, tu perché... Claudio, quello glielo so fare. Il problema è che non ne ho trovato né a gara, ho trovato il mister Muscolo e ce l'ho a casa, ma non l'ho ancora usato. Adesso stanotte ho messo la Coca-Cola, come mi ha detto l'idraulico, e ha detto che funziona perché ha sturato una vasca che era piena. Coca-Cola, quella Coca-Cola, però, Sì, Coca-Cola, Coca-Cola, le ho messo due bottiglie da litro e mezzo. Ok. E ti stai accorgendo se sta calando il volume? Se sta scendendo piano piano? No, sta bollendo però, sta bollendo, ci sono le bollicine che salgono. Ok, se sta bollendo sta mangiando, ok. Vabbè, poi se domani il coso è calato, le fai andare con l'acqua bollente e poi ci butti anche un pochino di quel muscolo, quel coso lì, con l'acido come liquido. E mi sa che è in gel, boh, non lo so, mi pare che sia in gel. In gel, già funziona quello, è un prodotto chimico in gel, ma è a base di acido muriatico anche quello. Ma le tenterò tutte prima di buttarci i soldi, perché sarà un'ingente spesa. Cambiare, io lo farei cambiare del tutto, poi una volta che apro lo faccio cambiare tutto. E vabbè, ma lì devi sfasciare quanto c'è, tirare fuori tutta la tubazione, quella non è così, no? Quella, visto che entra nel muro la tubazione, dallo scarico dell'arrello va poi nel muro, perché nel muro c'è il tubo che congiunge allo scarico fognario, chiamiamolo così, quindi devi fasciare tutto. È quello. E se no mi ci metto una bacinella, quando la vecchia tipo la svuotare nel gobo, non che cazzo se me ne frega di sfasciare tutto. Allora, quelle sono le cose che fanno i vecchi, ok? Io mamma una volta l'avevo vista fare una cosa, scusa, ma perché usi questa macella? Perché io si tratta di il capanno in casa, un lavandino, ok? I vecchi usano quella, che mia socia la usava, lavavano i piatti in questa bacinella dentro l'avello, ok? E poi la buttavano nel cesso, capito? Proprio per non intasare, perché il residuo andava poi a intasare la condotta di scarico. Vabbè, vedremo, allora speriamo che agisca stanotte la Coca-Cola, così mi riesci da mezzo. Perché è troppo necessario, dai, la bambino, l'avello è troppo necessario, scolare la pasta, fare tutto qua. È ovvio, è necessario. Avanti Antonio, riprende e fai girare. Antonio riprende, Carlo riprendi. Antonio starà preparando la cena. Sì. Gianni, se hai problemi dimmelo domattina, che ti porto io la pompa e ti diverti un pochettino, vedrai che già lo studi. Trovi ovviamente senza il sifone collegato, no, direttamente dove c'è lo scarico, capito? Ti do tutti gli attacchi, capito? Carichi e spari, poi ti riposi e fai diversi tentativi. Con l'aiuto di questi prodotti chimici vedrai che già lo sistemi, altrimenti a sfasciare ti costa un sacco di soldi, meglio spendere qualche soldo così in prodotti tra la Coca-Cola e magari questi a base di acido muriatico, vedrai che già si risolve. Me l'ha detto un dottorino che ha provato suo fratello, mi ha detto che è molto buono, che lo vendono da Pilas, dalla drogheria Pilas. E infatti domani mi sa che ci faccio un salto, se vedo che non è risolto provo anche quello. E buonanotte. Una cosa o l'altra deve funzionare by food. Esatto, non ti devi arrendere, vedrai che già lo risolvi. Carlo. Ehi, dimmi Marco. Spiega, quando sono entrato ti ho detto che quella storia del porta a porta è stata anche a noi. Praticamente è arrivato, io ero convinto fosse da via Pronunziata in poi, no, svoltando qui nella via, anche in quel pezzo dove ci sono i cassonetti. Invece ho scaricato la lista delle vie del comune e rientriamo anche noi. Quindi io mi sono fatto fare la delega alla mamma. Poi porto carta d'identità sua, mia, codice fiscale suo, vabbè anche mio se me lo chiedono, e mi vado via Montello a ritirare i mastelli quanto prima, tutto il materiale corrente, perché pare che dal 2 gennaio, dal 2 febbraio rimuovano i cassonetti qua, quelli che c'hai proprio quasi davanti, no? Dove c'è quella aiuola con gli alberi. Anche qua. Sì Marco, guarda, sotto casa io ce l'avevo sotto il terrazzino, in via Pola, proprio all'angolo con la pizzeria, e li hanno tolti proprio stamattina, non ci sono più. Invece quelli che ci sono giù nella piazzola sotto gli alberi ci sono, infatti sono sceso a buttare la plastica, non c'erano, ho allungato, ho fatto altri due passi e ho buttato tutto là. Quindi, però se levano anche quelli, alla fine dovremmo usare i mastelli. Purtroppo è arrivato, lo vogliono estendere a tutta Sassari, no, perché non se ne parlava per tanto tempo, poi l'amministratore ha mandato un messaggio sulla chat comune avvertendo che potevamo procedere a ritirare i mastelli piccoli, no, personali. E noi eravamo molto anche combattuti, sai perché? Perché c'è un allora sopra le 10 persone dovresti avere i carrellati, quelli grandi con le ruote, però non tutti i condomini hanno un vano dove tenerle, no? Tant'è che in via Luna e Sole tre condomini di un mega palazzo, no? Tre condomini, credo che sia una struttura unica, ma sono tre numeri civici, sono in contenzioso col comune perché loro, non avendo un vano adatto, hanno solo i parcheggi che sono però gestiti da un privato, parcheggi nel cortile interno sono gestiti da un privato e la destinazione d'uso non la possono cambiare, e quindi il comune gli ha impedito di avere i mastelli personali e metterli sulla strada, sullo pubblico, no? Però allo stesso tempo loro non hanno posto a metterli, e quindi sono dovuti rivolgere, pensa, al TAR, che nominerà un tecnico per trovare soluzione al problema. Insomma, solo casini in arrivo. Io spero che non siano troppo fiscali, se tu sbagli appena appena qualcosina, perché ho sentito che se sbagli qualcosa loro lo vedono dalle buste e manco te ne ritirano. Bisogna stare molto attenti a separare bene tutto il materiale. Vai Carlo. Sì, esatto, e problemi ce ne sono tanti. E poi vorrei capire una cosa, per ritirare da tutti tutti questi quartieri qua di Luna e Sole, no? Via Prunistetta, via Livia, tutte queste vie qua, ci sono condomini molto grandi, capito? E quanti mastelli troveranno giù il personale adesso a ritirare queste cose? Dovranno aumentare anche e assumere più personale, quindi io non lo so come quanto converrà anche al comune questa raccolta porta a porta, perché se tu la fai in un quartiere tipo Sant'Orsola posso capirlo, capito, è limitato lì, lo fai in un altro quartiere e va bene, ma farlo dentro la città dove ci sono condomini molto, molto grandi, e come dici tu non tutti hanno lo spazio per tenere i mastelli quelli grandi carrellabili, e dove li metti, capito? Non li puoi mettere fuori perché il comune ti dice non puoi usare il suolo pubblico per metterli, e quindi saranno un sacco di problemi. Adesso vediamo cosa ne viene fuori, Marco, insomma problemi a non finire, dai, riprendi Gianni. A noi questo cambiamento ci ha dato solo spese e basta, perché abbiamo dovuto mettere una pulsantiera esterna al cancello, di modo che quando vengono quelli del comune possano digitare, hanno il codice, digitano il codice per entrare dentro, perché noi i cassonetti ce li abbiamo dentro, o mastelli come li vuoi chiamare, ce li abbiamo dentro. tra l'altro non possiamo metterli sotto la finestra di un inquilino, dobbiamo metterli dall'altra parte, e praticamente per passare le macchine dobbiamo togliere i pali che avevamo messo, perché qualcuno metteva la macchina fuori il parcheggio e avevano messo i pali. Adesso quei pali vanno tutti, perché se no, se ci sono i cassonetti, le macchine non passano, quindi si devono allargare dove ci sono i pali. Dobbiamo pagare per togliere i pali, dobbiamo pagare perché lì c'è una moto abbandonata da tanto tempo con la targa, e dobbiamo risalire al proprietario. Non so se sia morto o che cosa, perché con la moto si sta tutta distruggendo, ruote abbassate, sgonfie, sedile tutto rotto. Insomma, dobbiamo fare una ricerca di chi possa essere il proprietario e farla spostare, perché dobbiamo passare con le macchine. Insomma, dai, i problemi non finiscono mai, esatto. E quella moto è un casino se ha la targa, perché non è che la puoi demolire così, capito? E bisogna, sì, risalire al proprietario, se poi questo non c'è più, allora niente, si dovrà smaltire e sarà il condominio poi a pagare, capito? Purtroppo è così. Bene, Meda, ragazzi, io mi preparo la cena perché sono già le 8 e quindi vi saluto e ce la risentiamo domani sicuramente. Va benissimo, dai, vi saluto a tutti, ciao Gianni, Doppio Room, l'altro Gianni, Luca, Claudio, Marco, ascolto il vostro finale e poi me ne vado a preparare la cena. Ciao, ciao Carlo, grazie per il QSO, dai, ci sentiamo domani, buona carica quando la fai. Avanti. Sì, aspettavo anch'io il mio giro perché sono già le 8 passate, anch'io mi sposto in cucina, quindi un saluto circolare a tutti, ciao Carlo, Gianni Rubro Fretta, Gianni Opio Rum, Marco, Antonio, Luca mi pare c'era anche il Core X, insomma, un saluto circolare a tutti, grazie alle due chiacchiere, ci risentiamo domani, avanti Marco. Scappa. Ciao Carlo, buon tutto e ci sentiamo. Vediamo se è rientrato Antonio per i saluti. Luca? Tutti spariti. Vista l'ora già, saranno ai fornelli. Ma tu il cane l'hai portato già o devi andare? C'è un ventaccio fuori. Nel pomeriggio era tremendo. Le tende erano già mezze stracciate, le avrà stracciate del tutto. E vedevo l'antenna oscillare questa mattina quando sono uscito. Ho detto, ma chissà che c'è la volta buona. C'era un vento stamattina, non me ne sono accorto che c'era tutto questo vento. No, il cane l'ho già portato, Marco, l'ho portato verso le 7:30, sono rientrato verso le 7:30, verso le 7 l'ho portato, alle 7:30 sono rientrato e sono venuto qua in radio. No, l'ho portato, ero stressato, guarda, tutta la sera ho preso quell'affare, quel mio amico poveraccio era crepato. Ci ha tentato 3 o 4 volte con la pompa, l'ha messa sino a 4:30, ma ha detto già, ci tentiamo, speriamo di spaccare tutto. Ha provato, oh, me lo manda indietro, c'è proprio un tappo allucinante. Quindi Claudio è andato ai fornelli o rimane un altro po'? Claudio, è con me prima. No, è già andato. Va bene, quindi una rottura dei balle in più già, però io non capisco questa disparità di trattamento, cioè se nei condomini grandi oltre 10 unità abitative, come per noi a quanto capito è permesso usare i massellini personali, che tu solo metti fuori in certi giorni e in certi orari, no? Tutto a fasce orarie e in giorni alternati, cioè. Mi sono perso, cioè come mai quelli via del sole hanno dovuto affidarsi al TAR, non ha giù un peso, non ho capito bene come la storia. Fatto sta che i carrellati non avevano posto, i piccoli, dice metterli, forse loro intendevano che volevano metterli su suolo pubblico, forse con delle strisce delimitate, come i cassonetti in poche parole, lasciarli tipo fissi, ecco. Cioè in pratica adesso ci dovremmo tenere quei 3-4 mastelli a casa in mezzo alle balle, così è, perché c'è la carta, la plastica. il generico, l'umido, presumo anche il vetro, boh. Che mi devo riempire la casa di vabbè, lasciamo perdere. Marco, non vuoi mio parere, se lasciamo nel casolino ti faccio un omino, hanno fatto solo casino, noi dobbiamo pagare anche 10 euro in più al mese per lavare, perché voi ve li dovete lavare voi quelli, invece quelli grandi c'è una ditta esterna che li lava e dobbiamo pagare 10 euro al mese in più. Ti sembra giusto? Non per i 10 euro, ma dopo che paghi la terza monetta devi anche pagare ulteriormente. Ehi, guarda, ma infatti Cassonetti, oh già, io ho visto fare abusi qua, cioè cose vergognose, ho visto proprio ferro, materiale ferroso buttato deliberatamente, che ne so, nel cartone, nel cassonetto del cartone, aspirapolveri buttati nella plastica, elettrodomestici buttati proprio deliberatamente nel cassone della plastica, cioè, alla fine quello lo paghiamo tutti, proprio le stufe, elettrodomestici abbandonati a fianco ai cassonetti, proprio buttati a terra lì, di tutto, l'altro giorno addirittura hanno messo in questa piazzetta, questa aiuola dove ci sono gli alberi alle spalle dei cassonetti, un divano, segue i divani antichi degli anni 60, devono averlo fatto, no, un divano messo lì in mezzo a questa aiuola, un divano a tre posti. Mi. Che cosa ci vuole telefonare, come faccio io, al numero verde? Ti attacca, ti danno il numero, tu lo attacchi, naturalmente devi pagare la tassa bondezza perché loro vanno a verificare l'utente. Se tu rientri negli utenti che pagano la tassa bondezza ti fanno il servizio. Io li do praticamente, mi danno il numero, io attacco il numero a quello che devo buttare, dico guardi, lo metto vicino al portone perché è pesante, da solo non ce la faccio, va bene. Vengo al numero mio, al numero civico mio, me lo prendo e domani mattina non c'è più. La notte lo metto e la sera mattina me lo prendo. Sì, secondo me aumenteranno anche così, oltre alle sanzioni già, se tu sbagli il poco, magari se non lavi bene i barattolini, tipo legumi, quella roba lì, insomma c'è un codice pure, quindi tutto sanno quello che butti, quanto ne butti, e ti dico di più, che se vedono che ne butti un bel, aumenteranno anche le tariffe, secondo me. Io allora per dire, qua io pulisco ogni giorno gli uccelli, gli metto la carta, di solito uso quei volantini che mettono per la pubblicità, perché il negozio dove vado a comprare io, quando fanno le offerte, quelli che li avanzano, che non usano più, me li danno, quindi me li danno ammazzurati proprio, io uso quelli lì, però la carta è cagata, mica lo posso mettere la carta, lo metto, l'ho differenziato, solo che ne faccio un bel, perché io ho due gabbie grandi, e quindi è normale che la carta, quella con le feci, la devo buttare nell'indifferenziata, non è la carta. Io ho pensato anche a quello, noi abbiamo le gatte, no? Non la loro sabbia, vabbè, queste, soprattutto una di queste due gatte caga come un elefante, e quello va nel generico, spero, dico, che non ci siano problemi o fraintendimenti, comunque guarda, solo scocciature, secondo me questo lo stanno facendo per gli abusi, che molti hanno fatto sempre, di buttare tutto dove capitava, capito? E vabbè, ci saranno molte lamentele, eccetera. Io per sicurezza mi porto anche l'ultima bolletta della Tari, non sia che ci sia un codice utente, capito? Mi porto l'ultima bolletta, forse ci provo domani a andare in via Montello, a meno che non si debba prenotare, ma io passo comunque, con la scusa di uscire, passo lì, chiedo, se mi danno tutto è buono, perché poi succede che il 2 gennaio se veramente tolgono i cassonetti, e dove la butti la roba? In strada. Le buste ti devi far dare, ma via Montello dove? A me me l'hanno data al buon pastore, c'erano dei gazebi e me l'hanno dato lì, li distribuivano agli utenti che andavano a ritirarli, mi hanno chiesto che via ero, e ho detto va bene, e mi ha dato il cartone con tutte le buste, ma finite queste buste, dove poi bisogna andare a prenderle, bisogna comprarle o bisogna andare a prenderle, questo è mica lo so. Infatti me lo diranno lì, io a quanto ho capito il kit comprende i mastellini che sono nel nostro caso incomodato d'uso, a quanto ho capito, le buste e poi un dépliant o un libretto dove ti spiega bene cosa buttare, dove buttarlo, in che giorni buttarlo e a che ora mettere il massello, insomma una... cioè, immagina che tu debba mettere quei 2-3 masselli persona, 13 appartamenti e vedi tutta la via, il marciapiede tutto tutto masselli, ma contenti loro, vabbè. Saranno contenti i cinghiali che li rovesciano, si mangiano nella roba, e anche il vento che ci porta via i masselli, perché io a Portottore se c'è già da un po', più di 5 anni, cioè perché io sono 5 anni che ci manco, c'erano già, e praticamente quando c'era il vento volavano, si sbattevano le macchine. Una volta questo mi ha chiesto se sapevo di chi era questo mastello che aveva spaccato il faro della macchina. Io ho detto no, non lo so, sarà di qualcuno che abita qua vicino. Il vento l'ha buttato sulla macchina, così l'ha spaccato il faro di dietro. Figurati, sì, comunque i cinghiali soprattutto nelle zone limitrofe saranno un problema, perché nell'umido, quando metti il massello dell'umido, cioè il cinghiale non è né il gatto né il cane, il cinghiale spacca tutto, riesce a spaccare tutto, a mangiarsi quello che si può mangiare. E vabbè, vedremo, dai, adesso cerchiamo di prenderla con filosofia. Magari Marco, poi ci abituiamo e ci vedremo nella normalità, all'inizio un po' così, però poi magari con la forza abitudine. Noi abbiamo dovuto mettere la tastiera fuori nel cancello, perché noi la mettiamo all'interno e ci rilavano loro, noi non dovevamo toccare nulla, mentre invece voi ve li dovete lavare voi. Comunque sai, se uno usa buste non bucate, cioè deve stare attento a non bucarle, quindi il massello magari avrà bisogno di una minima manutenzione, spero. Certo, se si rompe il fondo di una busta lo devi lavare, ti devi arrangiare in casa. Oh, a me viene comodo già, io sono al piano rialzato, io faccio 9 gradini e sono in strada, però più sali di piano qua ti devi carrare i masselli sotto braccio. Volevano mettere l'ascensore qua, lo sai, stavano studiando un coso per mettere l'ascensore, avevano fatto il sopralluogo, poi non si è più saputo niente. Vabbè, volevano fare tante cose, poi però tra dire il fare c'era in mezzo al mare. Cappa. Ma lo spazio interno c'è, o lo volevate mettere esternamente? No, interno. Praticamente il pianerottolo diventerebbe la metà come profondità, a quanto ho capito. Guarda che è un coso, cioè arrivi alle scale, c'è proprio il giusto il tempo, il coso di entrare nella porta, e il resto, però, boh, a me sembra una cosa troppo radicale per un palazzo del genere, capito? Non lo so già, vediamo. Tante cose arretrate, c'è il Torino ancora da fare. Poi questi delinquenti della prima impresa hanno lasciato tante cose incompiute, fregati i soldi, per carità di Dio, guarda. Dei lavori però non del 110, quelli privati aggiuntivi che dovevi pagarti in tasca. E mi hanno fottuto i soldi, cioè non hanno finito i lavori. No, hanno chiesto l'anticipo, certo non roba grande, però già. Pensa a una del condominio, per fortuna noi non abbiamo fatto toccare le piastrelle dei terrazzini, le piastrelle, hanno fatto solo il bordo, no? E l'hanno lasciato a metà. Una e gli hanno tolto anche le piastrelle del terrazzino dal lato interno ed è senza piastrelle, cioè c'ha il terrazzino allo stato brado col cemento vivo, guarda, dei delinquenti, ne avevamo parlato, erano una ditta di Porto Torres che è nata dal nulla, cioè prima non esistevano, l'hanno istituita ad aprile, pochi mesi dopo hanno iniziato i lavori. Poi è successo casino tra i soci stessi della ditta, si sono rubati roba a vicenda, materiale sparito a vicenda, roba loro, però un macello già, un macello. Ma perché io qualcuno di ditta a Portottore se la conosco, ma non lo so, sono dei seri che hanno sempre avuto dei lavori, non compreso, li ho visti anche vicino a casa a lavorare in un palazzo, perché mi ha riconosciuto la carta, e ho detto, beh, dove stai andando? Ti mi appassi di volcato. E mi ha detto che stavano facendo due palazzi addirittura. Ma infatti qua sai cos'è? Questi avevano le carte in regola, cioè anche se l'hanno istituita dal nulla, eppure l'amministratore aveva detto che bisognava affidarsi a ditte già consolidate, conosciute, note, no? Però siccome erano tutte impegnate, le carte di questi, le cose legali erano apparentemente in regola, ci siamo affidati a loro, vabbè, grazie a Dio il capotto è completato, tutto il resto, sì, hanno lasciato delle lacune nelle cose da pagare di tasca privatamente, capito? E prima o poi si risolveranno anche quelle. E comunque poi qua era venuta una seconda impresa, a qualcuno gli hanno soffiato soldi, anche la seconda impresa, lasciando roba, lavori a metà, poi già tenere con un'altra. Mi hanno parlato anche, sai le guarnizioni delle porte e finestre, no? Quelli dei doppi vetri, hanno visto guarnizioni visibilmente usurate, cioè era materiale di recupero, guarnizioni già mezze vecchie, mezze usurate, mezze screpolate, aiuto. Per carità, roba seconda mano. Ma io già le avevo messe, le guarnizioni quando ci hanno consegnato la casa non erano comprese, però c'erano i binari per metterle, no? Io sono andato, ho comprato un paio di vetri e me li ho messi io, capito? E non passa aria, non passa aria con le guarnizioni del doppio vetro, non passa aria. Solo che adesso vabbè, le porte si sono un po' ovalizzate, praticamente il legno non è più dritto come prima, chiude male e un po' di aria si sente, capito? Sì, comunque qua già, questa del 110... un po' molte persone sono rimaste scontente perché per esempio avevano previsto il portoncino blindato, cioè non blindato, coibentato, e poi invece non ne hanno messo, chi aveva più pompe di calore si è ritrovato che da tre, magari ne aveva tre, gli hanno dato mi pare una o massimo due, cioè gli hanno tolto l'impianto che c'era per avere un impianto diminuito. Poi te l'ho detto, guarnizioni vecchie in certi casi, a un altro condomino gli hanno messo questa porta a finestra con un bordo alto roba di 10 cm, cioè che ci inciampi ogni volta che passi, e non era prevista, ma cioè lui non aveva richiesto una cosa del genere, hanno fatto casino, vabbè. Però ti posso dire che già in inverno ti rendi conto che c'è già meno freddo. In estate è un po' meno caldo, cioè un po' l'effetto capotto lo fa, però noi abbiamo le finestre che sono quelle vecchie, perché noi non avendo una pompa di calore o sistema di riscaldamento autonomo nostro, cioè parlo del mio appartamento, allora chi non aveva già quegli impianti là, condizionatori o pompe di calore, non aveva diritto anche alle porte, alle finestre con i doppi vetri, capito? O porte e finestre con i doppi vetri. Quindi il punto debole qua è quello, capito? Abbiamo vetri singoli, con l'intelaiatura in legno, e sono originali di mi pare 50 anni fa o 60 anni fa, figurati. Vabbè. No, io li lascio tutti i doppi vetri, sono tutti i doppi quelli di casa, più le guarnizioni. Cosa devi fare? Purtroppo le fregature ci sono sempre, queste vite fantasma, le chiamo io così, perché di colpo scompaio. Ma poi sa cos'è, la mano destra non sa quello che fa la sinistra, cioè qua hanno tagliato con la mola tutte le guide delle persiane perché davano per scontato gli operai, che avrebbero messo, cambiato tutto, messo persiane nuove, finestre nuove, e noi gli abbiamo detto cosa state facendo, qua non c'è il coso, cosa avete tagliato? Ci stavano portando via anche i pezzi del coso, poi con l'aiuto di qualcuno che sei tu, no, del maresciallo, abbiamo ricostruito le guide delle persiane, se no avevamo le persiane senza le guide, così che ballavano, c'è roba da fantascienza. Poi se fai comunque ricorso, denunce, ci passano 20 anni già, fai prima a mettertela a posto per conto tuo, vabbè. Ma tutto sa fare, carabinieri. Come? Il maresciallo sa fare tutto. Sì, praticamente tutto. Falegnameria, muratore in parte. Dimmi altre cose, se non mi sovvengo. Sì, sa fare quasi tutto e fa tutto. C'ha tanti di quegli attrezzi. In ogni casa, in ogni in campagna, a casa, nell'altra casa, ha tanti di quegli attrezzi da fornire un'impresa, che sia un'impresa edile, un coso, una falegnameria, di tutto va. Però vedi, è una cosa buona, perché ci ha aiutato molto. Elettricista, idraulico, tutto fa. Ma non ho imparato, vabbè, che chi vive in campagna solitamente queste cose le sa fare. Autodidatta, ho già autodidatta, poi sai, zio Franco, buon'anima, meno male di questi lavori che li faceva, quindi ha preso da lui, no? Così, io invece non so fare niente, non ho voluto imparare a fare niente, a dirla tutta, di queste cose di casa, di bricolage, eccetera. No, io già mi arrangio a fare qualche cosa. Ogni tanto metto a posto qualche cosa, se dove arrivo manca non tutto, io non è che sia che sappia fare tutto, però qualche cosa, solo che adesso con i dolori che ho non fa inchinarmi, non fa nulla, non posso far più nulla. Se fosse stato quello, per dire, l'altro giorno mi sono costruito il posatoio per i pappagalli, sono andato, ho tagliato un ramo di un olivo di quelli selvatici, bello grosso, che era dritto, l'ho tagliato bene, poi sono andato a casa con la lola, l'ho tagliato a misura, gli ho fatto l'intaccatura per il filato delle stecche e ne ho ricostruito questo, se l'avevano tutto mangiato quello che c'era, se l'avevano mangiato sì, doveva farlo fino al centro. Figurati, va bene. Ho già quasi, vista l'ora, inizio a staccare, da. Qua c'è, ti ho detto, sempre quello spiffero per via del cavolo del ricevitore, c'è una corrente, boia, mi prende le gambe. E quindi per oggi da. Poi con questo vento è ancora peggio, E ci sentiamo domani o quando capita, ok? Quindi ritieniti super salutato. E al prossimo corseo. Ciao già. Ciao Marco, io devo ancora fare carica, quindi vado anche io a mangiare e fare anche da mangiare a te. Mi sono trattenuto un po' perché ho portato prima il cane e andava bene così, dai. Ciao Marco, ciao, buona continuazione, dai, ci sentiamo. Ehi, io più tardi, magari adesso mi metto già un'idea in testa e poi vedo cosa cucinare, però mangerò alle 9:30 così, ancora è troppo presto. Ciao a tutti gli ascoltoni, ciao. No, io stasera mangio, mi faccio un'insalata con i fagioli, cipolle e tonno, che sono una volta che non ne mangio. Buono, tutto buono. Poi sai cos'è già, io quello che faccio per cena è veloce. Non cucino come per il pranzo, è una cosa veloce, tanto guarda, mamma si accontenta, non fa la cena completa, non ci riesce. Lei si mangia una cotoletta di pollo o una mozzarella fatta tipo, che ne so, tipo caprese, no? Poca roba, certe volte si mangia anche solo un paio di yogurt a cenato, io qualcosina in più, da. Va bene, ciao Gianni, ciao. Ciao Marco.